se guardiamo il biennio 2008-2009 abbiamo che gli elettrodomestici bruni, quindi l'elettronica di consumo, televisori e tutto quello che serve per fare un bel palinsesto gestito autonomamente all'interno delle mura domestiche, abbiamo un segno più. Dopodiché abbiamo quasi tutti segni meno: abbigliamento e calzature -3,1, le vacanze -3,2, mobilità e comunicazioni -3,1, anche gli alimentari hanno subito una riduzione forte, anche se sugli alimentari c'è una parte di riduzione di sprechi che non è effettivamente riduzione dei consumi. Salto all'indietro, che possiamo quantificare con la seguente cifra: nel 2009 attesta la spesa per consumi mensili di circa 1.270 euro, nel 1999 era di 1.290 euro, sempre a prezzi costanti, senza considerare l'inflazione. Ed è questo il dato, peraltro ufficiale, di fonte Istat, che fornisce una spiegazione a quel senso, diciamo, di difficoltà, di riduzione delle aspettative, soprattutto delle giovani generazioni, che oggi patiamo. Quindi da 1.270 euro precedenti biennio, giusto? Sì, è del 2009, dopo il biennio, diciamo, alla fine, dopo la crisi, e ecco, eravamo a 1.290 nel 1999, quindi un salto all'indietro di oltre 10 anni. Quindi siamo tornati ai 1.290 euro, diciamo, sì, del 99. Sì. Chiaramente a prezzi costanti, quindi già... Certo. Già avendo incluso l'inflazione. Sì, lei citava le voci sul consumo alimentare, è vero che c'è, insomma, c'è maggior margine per comprimere la spesa, perché un po' di sprechi li facciamo tutti. Vacanze, ho visto -3%, i pasti in casa e fuori -3%, mobilità e comunicazione -3%, abbigliamento e calzature -3%, insomma, salute -3%. L'uniche due voci che si confermano in crescita anche nel biennio 2008-2009 sono elettronica e PC, cultura e svago. Ecco, dentro cultura e svago però è opportuno ricordare che c'è anche l'investimento delle famiglie, il consumo delle famiglie per concorsi, per giochi, per lotterie, e questo è un dato, diciamo, complesso da interpretare, nel senso che può essere testimonianza non di un incremento del consumo del godimento, ma del tentativo di sfidare la sorte per sostenere quel reddito che dal punto di vista del lavoro non viene, quindi non è forse un elemento particolarmente favorevole nell'interpretazione dei consumi. Peccato, perché alla voce cultura e svago dico magari hanno comprato più libri, più c'è cinema, un punto di crescita anche dei spettacoli, ma c'è il discorso delle lotterie che è andato molto molto forte.